299. Girello alla brace, garetto. Volete un piatto di carne della cucina bolognese e dei più semplici che si possano immaginare? Fate il garetto. Così chiamano a Bologna il girello, che è quel pezzo di carne di manzo senza osso, situata quasi all'estremità della coscia, tra il muscolo e lo scannello, che può essere del peso di grammi 700 all'incirca, ed è il solo che si presti per quest'uso. Mettetelo al fuoco senza altro condimento che sale e pepe, niente acqua e nient' altro ingrediente. Chiudete la bocca della cazzaruola con un foglio di carta a diversi doppi, tenuto fermo dal suo coperchio, e lasciatelo cuocere molto lentamente. Vedrete che getta una copiosa quantità di sugo, che poi riassorbe a poco, quando lo avrà ritirato tutto, levatelo e servitelo. È quasi migliore di accio che caldo. Che sia un piatto sano e nutriente, nessuno può dubitarne, ma che, per la sua troppa semplicità, possa piacere a tutti, non saprei dirlo.